Tutto passa in mano a Stefania. È già la mia ora. Arrivo, pronta. Stefania è pronta. Aspetta, aspetta. Sì, sì, andiamo giù. Porta a porta, sì. In un orario un po' inconsueto, però facciamo un bel show. Non ho il plastico, mi manca il plastico per fare. Non abbiamo il plastico, però abbiamo un libro che avete tutti nella borsa che avete ricevuto ieri. Il libro su Carla Passaracqua, che si intitola Carla P. Le vite di Carla P. Scusate, la scuola e il sindacato, le donne. Ecco, qui vicino a me, vabbè, li conoscete già ovviamente, Rosina e Gigi Bonfanti. Da questa parte invece le autrici di questo libro, che è stato voluto dalla FNP del Piemonte insieme a Ciscuola Piemonte, con il sostegno della FNP nazionale e con il lavoro fatto dalla Fondazione Nocentini. Il libro infatti è curato da Marcella Filippa. E l'altro saggio è stato scritto invece dalla nostra Silvia Inaudi. Quindi per prima cosa vi chiederei di presentarvi brevemente, perché mentre i segretari sono conosciuti da tutti i nostri pensionati, a voi invece una brevissima introduzione. Prego Marcella. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Vi ringraziamo di averci invitato al congresso dell'FNP, ovviamente. Ringrazio FNP CISL Piemonte, la scuola CISL Piemonte e i pensionati nazionali che hanno voluto e sostenuto fortemente questo libro. È uscito in questi giorni e voi siete i primi ad aver ricevuto una copia di questo libro. Questo libro in realtà è un libro più voci, ecco, diciamo che il progetto che abbiamo realizzato è stato quello di dar voce alle tante persone che hanno incontrato nella loro vita, hanno apprezzato, hanno avuto una relazione di amicizia e una collaborazione nel periodo in cui Carla era insegnante e poi direttrice didattica e poi quando Carla Passaracqua era impegnata nel sindacato. Mentre noi parliamo scorrono le immagini che abbiamo inserito nel libro, non sono molte, ce ne sono alcune che ci piace ricordare e che in realtà voi avevate il libro, ma vedo che quasi nessuno se l'è portato, ma speriamo che lo leggiate prossimamente. Allora, questo libro ha un titolo e una copertina che vorrei un po' spiegare. Allora, intanto il titolo è stato, e me ne assumo pienamente la responsabilità, è stato fortemente voluto da me che ho curato un po' la pubblicazione, Le vite di Carla P. Ha un senso. Allora, intanto si ispira, come dire, a titoli più famosi o anche un po' ironicamente una sorta di alter ego, a partire dalla storia di Anna Oh di Freud, che è una storia di racconto e anche di cura, e alla storia di un'altra donna che vive, diciamo, nel nord Italia, all'estremo opposto di Alba Trieste, che è Laura Weiss, medico. E in qualche modo questo titolo richiama anche la parte finale che voi vedrete. Allora, il libro si apre con questo titolo e si chiude con i saluti di Carla P. Poi lo vedremo anche proiettato. Lo vedremo proiettato. Allora, perché spesso Carla si firmava in questo modo. Due foto abbiamo scelto nella copertina che in qualche modo richiamano, credo, un po' lo spirito del sindacato pensionati, la liaison, il legame forte fra le generazioni. qui c'è una Carla matura che sorride e guarda una Carla giovane, quindi in una sorta di specchio, di riconoscimento, ma anche di alterità. Le due generazioni di Carla, una Carla giovane sorridente che è ingita da Anna Capri nel 1954 ad agosto, perché in quegli anni Carla, come molte maestre di quella generazione, ce lo dirà Silvia, che ha curato un saggio, diciamo, che non è solo biografico ma che ripercorre le tante vite di Carla. Carla è una maestra che viene mandata al sud, e quindi in questo libro, diciamo, noi ritroviamo un po' in una sorta di specchio tutti i contenuti o molti dei contenuti che hanno, diciamo, attraversato la storia del Novecento: il sindacato, l'emancipazione, il tema dei diritti, il rapporto fra nord e sud, conflittuale, di non conoscenza e poi di riconoscimento, di diffidenza. Carla attraversa e vive un anno in una piccolissima scuola a Contursi Terme, in provincia di Salerno, proprio vicino a quei paesi in cui Carlo Levi era stato mandato al confino durante il regime fascista, e scrisse quello straordinario libro che credo molti di voi abbiano letto, Cristo si è fermato a deboli, e Carla si ferma proprio in quei luoghi. C'è una foto di Carla a cavallo di un asino, ecco, è una foto fortemente arcaica che ci è piaciuto segnalare, perché il sud in quegli anni era anche quello. Il libro, come dire, attraversa i temi del Novecento. Carla è un'alessandrina, anche se poi la sua città ideale in cui vivrà la maggior parte della sua esistenza è Alba, in provincia di Cuneo. Carla arriva da quella provincia alessandrina in cui, io dico, si era in qualche modo aperto simbolicamente il Novecento, con quel quadro che voi sindacalisti conoscete bene, perché in moltissimi uffici in Italia, in Europa, in Sud America e da altre parti io ho ritrovato, che è il quarto stato di Pellizza da Volpedo. Pellizza da Volpedo era un alessandrino nato appunto a Volpedo, che tra la fine dell'Ottocento e il primo del Novecento realizzò questo straordinario quadro che ha fatto poi il giro del mondo. E se voi pensate bene, in quel quadro c'è in prima fila, scrive in una lettera Pellizza da Volpedo a un'amica intellettuale milanese, marcia in prima fila una contadina scalza con un bambino in braccio. In qualche modo il secolo si apre con questa immagine di una donna che porta avanti, proprio come porta avanti Carla, e poi lo vedremo, con il suo carattere. Ieri sera a cena lo dicevamo, non era un carattere facile. Noi non abbiamo voluto santificare, non ci piace santificare le persone di cui ricostruiamo la storia, e qui ringrazio la Fondazione Nocentini e tutti i miei collaboratori che insieme a me hanno lavorato anche con grandi difficoltà, e poi questo lo riprenderemo, e ce lo spiegherà Carla. Io spero che questo libro sia, c'è un passaggio che io cito nella mia introduzione riferendomi, non so se leggete il Domenicale del Sole, c'è oramai da circa un anno un testo che ogni settimana richiama una parola chiave, che è scritto da Monsignor Galantino. Qualche mese fa Galantino ha scritto sulla parola contagio. Ecco, oimè, in questi giorni la parola contagio non può che richiamarci la cosa terribile che è successa in Siria, il contagio con i gas nervini in cui sono morti decine di bambini, di uomini, di donne inerme, proprio come negli anni 30-40 del Novecento. Ma il contagio anche, come dire, ogni parola ha un gioco, un'ambivalenza. Il contagio è anche quello di trasferire conoscenza, di contagiare. Allora io spero che questo libro che io mi auguro, e qui abbiamo con noi Gigi Bonfanti, e ho strappato già un impegno informale ieri a presentarlo da altre parti, io spero che questo libro sia, come dire, contagioso, nel senso che ripercorre quella storia che ha ripercorso ieri il video che anche noi abbiamo realizzato, quella storia contagiosa di cui ci hanno raccontato gli uomini e le donne che hanno fatto il sindacato e la FNP. C'è un passaggio, e poi davvero concludo e lascio lo spazio agli altri, di una testimonianza di Diego Caretti, che è una, se mi permettete di dire, non solo per l'affetto che mi lega a Diego, una delle più belle, in cui lui racconta che da ragazzo vide i partigiani fucilati, ed è una storia che ripercorre anche questo libro, che racconta di chi ha scelto di stare da quella parte perché non poteva fare diversamente. E allora Carla P, e allora Tina Anselmi, e allora Diego Caretti, e allora tutti gli uomini e le donne che non hanno potuto fare a meno di stare da quella parte. Marcella, allora, come appunto già tu ci hai anticipato, non è stato facile ricostruire la vita di Carla. Sentiamo allora che cosa ci racconta Silvia, che appunto si è occupata non solo della ricostruzione biografica, ma anche di capire poi come si è svolta la sua attività. Da prima nella scuola, perché sappiamo che già lì è stata una grande innovatrice, e poi anche nel sindacato, appunto per un maggiore riconoscimento del ruolo delle donne. Salve. Io sono Silvia Audi, sono una ricercatrice di storia contemporanea del Dipartimento di Studi Storici di Torino, ricercatrice precaria, scusate, lo sottolineo sempre, per me è una formazione politica, penso che questa sia la sede giusta per farla, e appunto mi occupo di storia delle donne, storia del welfare, storia dell'infanzia, argomenti che molto spesso all'università mi dicono studi cose inutili, quindi questo vi dà anche il... insomma, la sensazione di come sono percepiti ormai determinati argomenti al di fuori anche di questi contesti, per cui libri come questo, su persone come Carla Passalacqua, che hanno dedicato la propria vita alla difesa di determinati diritti, sono libri importanti, anche se possono sembrare meno, diciamo, avere meno appeal di altre tematiche che spesso vengono portate anche in televisione o comunque nelle occasioni pubbliche in cui si fa storia. Io ho avuto appunto l'incarico da Nocentini di ricostruire la vita di Carla Passalacqua. Non è stato semplice, nel senso che pur nell'ambito ristretto di un saggio biografico mi sarebbe piaciuto far uscire, far risaltare la voce di Carla, ma questo... c'è questo microfono che... pazzesco, questo è risultato in molti casi un po' più complesso di quello che mi aspettavo, perché pur essendo una donna profondamente pubblica, soprattutto per gli incarichi che ho avuto sia nel sindacato che a livello poi di governativo eccetera eccetera, le testimonianze che abbiamo di Carla sono sempre, quasi sempre, sono scritti in cui la voce di Carla come voce propria esce più nelle sfumature che non nel contesto. Carla, oltretutto, Carla Passalacqua, come poi dirà forse anche magari Marcella dopo, non è mai stata, è stata varie volte intervistata su vari argomenti, ma la sua memoria non è stata raccolta. Questa è una cosa. Non ci sono, infatti. Interviste vere e proprie dove lei racconta di se stessa No, cioè bisogna ricavarlo, ad esempio, che ne so, avevo trovato tra le fonti un'intervista che le avevano fatto sul tema delle molestie sessuali, visto che lei appunto si è occupata in particolare di questi argomenti, delle azioni positive eccetera eccetera, però tutto ciò che riguarda se stessa bisogna andarlo veramente a scavare e prenderlo con le unghie e con i denti. Quindi poi c'erano tante testimonianze su di lei, questo sì, Partendo dal presupposto che la maggior parte delle testimonianze erano di persone che l'hanno conosciuta bene e che l'hanno molto amata, quindi per uno storico bisogna anche un po' fare la tara, perché ovviamente, se appunto, come diceva Marcella, non volevamo ricostruire un santino di questa persona, e quindi bisognava bilanciare tra il trasporto con cui l'affetto con cui queste testimonianze nella maggior parte sono state redatte. Ce n'era anche qualcuna poi che era leggermente più critica, qualcuna anche che non è stata, che ho trovato da in altri contesti, che magari non sono state riportate nel libro, perché l'impressione che ho avuto, poi magari molti di voi hanno conosciuto Carla Passalacqua, io per età anagrafica, no? e poi anche per circostanze della mia vita non l'ho mai conosciuta, l'impressione che ho avuto è che Carla Passalacqua fosse una donna che o si amava molto o si odiava molto. Questa è l'impressione che ne ho ricavato, e questo però vuol dire che era una persona che evidentemente suscitava emozioni forti, perché probabilmente, senza probabilmente, metteva tutto se stessa nelle cose che faceva. Il ritratto di Carla Passalacqua che ho scritto è il ritratto di una donna che veramente ha consacrato la propria vita al sindacato. Scusate però, un attimo... Prego, sì. È una donna che ha consacrato la propria vita al sindacato, che ne ha fatto veramente la propria vocazione, nel senso, in un senso che a me, devo dire la verità, come persona laica, piace un po' poco, nel senso c'è sempre questa sensazione un po' anche di sacrificio, no? Nel termine vocazione. E lei possiamo dire che ha sacrificato molti aspetti della sua vita, non che non avesse una vita privata, insomma, è una persona che aveva moltissimi amici, ha viaggiato molto, ha fatto delle scelte, non ha messo su famiglia. Per me questa è una scelta giustificabilissima, al di là del fatto che l'abbia fatta o meno in quegli anni per dedicarsi maggiormente al lavoro, però sicuramente ha sacrificato molti aspetti, ha sacrificato nelle varie fasi della sua esistenza. Non è un caso che qua parliamo delle vite di Carla, perché è una persona che si è reinventata molte volte per venire incontro a ciò che il sindacato le richiedeva, e anche a volte per riuscire a, diciamo, svicolare gli ostacoli che il sindacato le metteva davanti, perché comunque, proprio perché vogliamo fare una storia oggettiva, no, perché oggettivi gli storici non sono mai, ma quantomeno obiettiva, gli anni in cui si è mossa Carla Passalacqua non erano anni facili per le donne nel sindacato, per cui molte volte Passalacqua si è scontrata con i propri colleghi e ha dovuto rimettersi in gioco. Parlo ad esempio del passaggio nelle tante fasi della sua vita. Dopo quella di maestra c'è stata quella lunghissima del Sinashel. Anche la fase del Sinashel è stata una fase in cui lei ha dato tutto a se stessa, ha formato tanti giovani, e però quando uno forse dà troppo, si impegna troppo e spinge le nuove generazioni, a volte questa cosa può venire vista anche un po' con sospetto, per cui a un certo punto, diciamo che si pensa sempre che le persone possano magari avere più fini nel fare queste cose. Questa è una cosa che emerge nel saggio, emerge da una delle poche interviste che abbiamo di Carla, il fatto che lei dicesse che a un certo punto nell'ambito stesso del Sinashel, scusate la parola, tanto cito Carla Passalacqua, l'hanno fatta fuori praticamente, perché le sue idee e il suo appunto promuovere le nuove generazioni, nuovi cadri, eccetera eccetera, poteva far pensare al sindacato che ci fossero, diciamo, da parte di Carla Passalacqua delle altre mie. Ditemi quanto ancora? Un minuto? Va bene, sì, prego. E quindi questo poi l'ha portato alla fase successiva, di cui magari parleremo dopo, cioè un impegno più pubblico, cioè prima nel sindacato, poi fuori dal sindacato, per i diritti delle donne. Va bene, grazie mille. Sentiamo invece Carla Passalacqua l'ha conosciuta di persona attraverso appunto il lavoro nel sindacato. Gigi, tu quali ricordi hai di lei? Io, prima, la difficoltà di parlare di una donna in mezzo a quattro donne, quindi la cosa è già difficile, qualche volta si è in minoranza, però io voglio anch'io parlarne molto. Io ho conosciuto Carla negli anni, se mi passate il termine, più aspri di Carla, cioè a fine del percorso, e quindi dove prevalevano i rancori e i rimorsi rispetto agli aneliti invece della prima gioventù in cui si è spesa. E quindi è un ricordo abbastanza conflittuale, perché Carla non era semplice. Carla ha sempre combattuto per cose importanti, con un modo però, ecco, poi ognuno di noi ha fatto la sua maniera, non riusciva, pur avendo idee eccezionali, essendo avendo precorso alcune scelte. A Carla si deve il numero, che a qualcuno dei maschietti può anche dispiacere, il numero che deve essere obbligatorio negli organi, nelle donne, e non solo nelle quote, non solo nel sindacato, ma anche nelle altre cose. Ma aveva un modo, di fronte a idee geniali, un modo difficile nel portarle avanti, che si creava più resistenze che non occasioni di incontro. Però, detto tutto questo, Carla è stata un personaggio fondamentale nel riscoperta, la dico io così, delle donne all'interno del sindacato. Io poi Carla passa l'acqua, si può dire, come ho scritto nelle righe, che l'ho apprezzata di più quando non quando l'ho conosciuta, ma quando sono arrivato nei pensionati, perché ho rivisto tante donne che hanno vissuto quell'esperienza e che oggi sono dirigenti, operatrici, sono gente che si impegna per il sindacato e che viene da quella cultura, da quelle battaglie. E quindi ho ritrovato Carla Passalacqua dopo tanto tempo. Negli anni invece, io ho vissuto Carla alla fine, perché c'è un po' di differenza di età, pur essendo anche tutte e due inseriti in un percorso politico-culturale identico di amicizia all'interno del sindacato, con una qualche difficoltà, perché Carla la prima impressione che ti dava era di ostruzione. Poi ci parlavi e incominciavi a diventare amico, incominciavi a capire, ma il primo approccio era sempre difficilissimo. E io credo che però questo, che oggi io giudico una limitazione, invece sia stata la grande forza che ha permesso a Carla di percorrere periodi non semplici dove si ragionavano di queste cose, perché oggi parlare delle donne nel sindacato, nella politica, è tutta un'altra cosa, è ancora incompiuta secondo me, però è un'altra cosa rispetto agli anni in cui è stato. Poi ho avuto la fortuna, il mio giudizio nasce anche da questo, che bisogna essere anche onesti, ho avuto la fortuna di vivere quasi in contemporanea la figura di Carla con quella di Tina Anselmi, tutte e due combattenti per grandi ideali, ma con un approccio rispetto alle cose nettamente diverso. E questo, quindi, anche il mio giudizio magari è, però proprio perché io ritengo che sia stata un dirigente, neanche una donna, un dirigente importante del sindacato, noi abbiamo intitolato una delle sale della nostra nuova sede a Roma, una Carla Passalacqua e l'altra Tina Anselmi. E quando faremo il vernissage, come si dice, della nuova sede che faremo dopo il congresso, chi ci sarà dopo il congresso, troveremo anche il modo di ricordare sia Carla che Tina Anselmi, che sono stati, e chiudo qui, due grandissimi al maschile, lo dico, dirigenti di questa organizzazione che era CISL. Vediamo invece che cosa ci racconta Rosina, che ha frequentato Carla Passalacqua e era fra quelle amiche che ci diceva anche prima Marcella, che forse avrete visto anche nelle foto che scorrono alle nostre spalle, che l'ha frequentata fino all'ultimo anche ad Alba, quando è ritornata a casa sua. Sì, questo libro nasce dal funerale di Carla. Il giorno che sono andata a Milano al funerale di Carla, alla fine del funerale ci siamo incontrate un po' di donne della CISL che l'hanno frequentata negli ultimi anni. Rita Pavan, che allora lavora, adesso lavora a Monza, ma era la regionale lombardo, la seguita di più negli ultimi tempi in cui Carla si era trasferita insieme alla sua badante a Milano e non era più ad Alba. E quindi Rita è riuscita a raccogliere una serie di materiali che poi è stato usato per fare anche questo libro, dalle foto agli scritti, ai pensieri, a documentazione che Carla aveva in casa. E ci siamo trovati a un funerale per dire come facciamo per ricordare Carla, e allora lì abbiamo deciso di fare un libro, ci vediamo un po' come lo facciamo, che, con chi lo facciamo, e io mi sono proposto di farlo con la Vera Nocentini, infatti abbiamo parlato con la Vera Nocentini proprio in occasione in cui la Vera Nocentini ha avuto un'iniziativa per ricordare Carla, proprio in via Madama Cristina. E di lì nasce l'idea, abbiamo trovato il modo di mettere insieme le idee. Allora, questo per dire che nasce da dire come utilizziamo le cose che ci restano di Carla. Perché Carla è stata, sicuramente, non ripeto le cose dette prima di me, una dirigente sindacale molto scomoda. E questo ce ne rendevamo conto anche noi, che rappresentavamo all'interno del coordinamento nazionale le strutture regionali di USR e le strutture nazionali di categoria. Il coordinamento nazionale era fatto dalle donne che nel frattempo avevano conquistato, grazie a Carla, il 30% di presenza negli organismi e almeno una donna in ogni segreteria, quindi dalle donne che erano nelle segreterie regionali di USR e dalle donne che erano in segreteria nazionale di categoria, con tutte le difficoltà perché tutti ce l'avessero una donna, insomma. Ed è chiaro che questi anni qua, per chi si trovava ad essere in una segreteria regionale o in una segreteria nazionale, avere la grinta di Carla per noi è stato di grande aiuto, perché non ce l'avevamo ancora tutte quante il coraggio di imporci rispetto ai temi e garantire la continuità di Carla, delle cose che dice Carla. Per cui c'è stato un momento di grande disagio in Carla, ci è stato di grande aiuto, tant'è vero, lo diceva prima Gigi, molte di quelle donne di quel coordinamento che io incontro normalmente quando vado alle riunioni nazionali sono ancora dirigenti della CISL, a partire da Anna Maria Furlano, voglio dire, questo è per dirne, sono ancora tantissimo. Rita Pavanga è segretaria generale di un UST di Monza Brianza, eccetera, eccetera. Non ho ripetuto tutte, ma ce n'è ancora. Fumarola è segretaria generale della Puglia. Ci sono donne che hanno frequentato il coordinamento nazionale quando l'ho frequentato io, che sono ancora negli organismi, adesso ci ritroviamo un po' di più nella FNP. Quindi questa è un po' la storia. È stato difficile stare lì, ma è stato anche molto piacevole, perché intanto ci hai robustite tutte quante, ci ha tolto le croste, voglio dire, che avevamo di timidezza rispetto al rapporto con i dirigenti maschi. Questa era la prima cosa che ha fatto Carlo con noi e credo che sia stata fondamentale. E poi, ragazzi, Carlo ha portato a casa questa grossa conquista che è stata della percentuale dentro gli organismi, ma ha continuato poi quando alla fine del coordinamento è andato al Ministero sulla legge, sulla parità. Questa, cioè le azioni, la legge sulle azioni positive che poi ci ha fatto iniziare la contrattazione aziendale dentro le fabbriche e che ha le aziende, è stato un pezzo di amore a casa Carla. Io credo che queste due cose qui, solo queste due cose qui, hanno segnato i grandi cambiamenti del periodo in cui Carla comunque è stata incisa. Ultima cosa, perché ci tengo a dirla, perché la cosa è stata anche molto piacevole. Quando poi Carla è andata in pensione e ha finito anche il suo pezzo al Ministero, noi trovavamo occasioni per andare a trovare ad Alba. Era in pensione, ma e venivano giù inizialmente un po' più spesso, un po' più numerose, anche le colleghe, le amiche che stavano a Roma, voglio dire, sono venute a trovarla la Gianna Bitto, che è una storica coordinatrice delle donne della FNP ai tempi di Pilitelli, voglio dire, no? Gianna Bitto è ancora lì, c'è più di 80 anni, è ancora lì che dava i volantini per qualcuno in Roma, insomma, Gianna Bitto. E voglio dire, la Pinuccia Cazzariga, che era in segreteria della Finnazionale, voglio dire, la sua segretaria, che era Anna Giordana, ma voglio dire, Paola Panerai, eccetera, la Maria Trentin dal Veneto veniva giù, cioè c'era una serie di donne che hanno frequentato il coordinamento femminile che ci trovavamo normalmente a ottobre alla Sagra del Tartufo e quindi andavamo a... E poi la Carla ci accompagnava oltre... La Carla ci accompagnava in quelle meraviglie che sono le Langhe, anche in qualche cantina, a comprare fare scorta di vino per i mesi successivi. E ce lo raccontiamo anche nel libro perché è uno dei ricordi più belli che abbiamo di Carlo. Andavamo in una cantina... Sì, cosa lo sa? Prospero, era un insegnante in pensione che faceva il vino, la collega di Carlo, che scriveva poesie, ci invitava nella sua cantina, ci offriva da bere, e le noccioline, le cose, eccetera, eccetera, e ci ubriacavamo. E lui ci ubriacavamo, spessissimo. E poi andava a casa di Carlo a dormire. E lui, mentre noi bevevamo e ce la raccontavamo su, leggeva le poesie che scriveva. E Prospero è uno dei ricordi, perché regolarmente, tutti gli anni, andavamo da Prospero. Quindi avevo passato giorni bellissimi quando andavo a trovare Carlo. Cioè, quindi fino alla fine, fino a quando poi la malattia invece è sopravvenuta e quindi non è più riuscita neanche più a stare ad Alba, ha dovuto avere bisogno dell'assistenza, eccetera. E quindi è chiaro che abbiamo visto un periodo molto fertile sul piano sindacale e dei risultati, ma anche con grandi ricordi in cui lei ci raccontava di quando era giovane, le cose che diceva Marcella prima, insomma, quando ha cominciato a lavorare, le sue avventure nel mondo del lavoro, poi le sue disavventure nel sindacato, continuava a raccontarci queste cose. Il ricordo di Carla è un ricordo bellissimo perché ci lascia delle cose che hanno segnato la nostra vita. Ecco, allora, abbiamo visto da questo profilo che è stato tracciato che Carla è stata una donna di grandi battaglie, dalla prima nella scuola, poi nel sindacato e poi fino all'ultimo, quando ha dovuto combattere anche contro la sua malattia. Come si cala quindi questa figura nel contesto a cui ci accennavi prima, quello del Novecento, in cui le donne hanno dovuto veramente combattere molto? Ma in qualche modo Carla rappresenta la tipicità e la tipicità delle donne nel 200. Quando Bonfanti accennava al carattere, al modo di essere, mi venivano in mente le tante donne di cui ho raccontato recentemente la storia e mi piacerebbe farne dono a Gigi del mio nuovo libro che racconta le storie di Torino e non solo nel Novecento. C'è un capitolo che in qualche modo la ricorda fortemente, un capitolo che io ho chiamato Donne senza rossetto. In realtà lei sta appieno in questa immagine, in questa metafora che io racconto, di una donna, già Silvia l'ha detto, che rappresenta fortemente quella generazione che fa, io dico anche, mi permetto perché forse qualche anno in più di Silvia e ho lavorato proprio su questa tipologia di donne, è costretta anche a scegliere, cioè non solo Carla sceglie, ma anche Carla è costretta a scegliere fra le tante vite, fra le tante identità e proclama un modo di essere che è fortemente tipico di quella generazione. Bonfanti prima diceva di Anselmi e di Passalacqua differenti, ma anche fortemente simili, donne che sono laiche dentro un riconoscimento di un'appartenenza, di un credo religioso, politico e sindacale, donne, c'è un bellissimo scritto che non è qua nel libro, ma a cui rimando, di Livia Puturco, che parla di donne che fanno la politica con eleganza. Non sempre sono eleganti nel modo del vestire, nel modo di essere, eccetera, ma sono eleganti perché usano un linguaggio, perché usano un atteggiamento, anche se aspro e scontroso. Voglio solo ricordare un'altra cosa che mi sembra significativa. Noi abbiamo scelto di far raccontare a 20 uomini e donne famosi, da Marini a Livia Turco, a meno famosi, ad Amici, a dirigenti politici sindacali nel mondo della scuola che l'hanno conosciuta, rigorosamente con la scelta di inserirli per ordine alfabetico. Abbiamo scelto di inserire come ultima testimonianza la testimonianza che io trovo struggente, perché è vera, è la testimonianza della badante che l'accompagna, di Alina, una donna ucraina che in questi giorni è in Ucraina, ma simbolicamente qui con noi, ha già ricevuto il libro da Rita ed è molto contenta, di queste donne di cui, come dire, il sindacato pensionati dovrebbe ricordare più spesso il loro ruolo. Se noi donne e uomini siamo qui oggi, è anche grazie a tutte quelle badanti che ci permettono, in famiglia, con i nostri anziani, con i nostri malati, di in qualche modo percorrere un percorso di emancipazione. E allora mi piacerebbe ancora dire due cose, permettetemi di dirlo. C'è un libro di cui sono fortemente sponsorizzatrice, allora qui ci sono uomini e donne che forse sono anche nonni, che forse raccontano anche, io voglio sperare, le fiabe della buonanotte alle loro nipoti e ai loro nipoti. C'è un libro che sta facendo il giro del mondo, in 6 mesi è stato tradotto in 21 paesi, grazie, e qui forse il sindacato potrebbe, come dire, farsi portatore anche di questa nuova modalità di raccolta fondi, attraverso un crowdfunding di 1 euro cada uno. In 6 mesi in molte parti del mondo si sono raccolti $1.300.000 per pubblicare, e in 21 paesi, questo libro straordinario che è Storie della buonanotte per bambine ribelli. Credo che questo libro sarebbe fortemente piaciuto a Carla, perché un po' ribelle lo era. Sono 100 fiabe della buonanotte raccontate da 100 donne italiane, spagnole, americane latina, africane, conosciutissime, da Rita Levi Montalcini alle, come dire, alle contadine. Impariamo anche, a una certa età e posso permettermelo, a declinare nella nostra bella lingua italiana il genere al maschile e al femminile. Usiamo pure, non abbiamo paura di usare, le dirigenti, le sindacaliste. C'è un maschile e c'è un femminile. La nostra bellissima lingua ce lo permette. Allora, di queste 100 favole, credo che una in particolare sarebbe piaciuta a Carla Passalacqua. È il racconto di una ragazza di cui sicuramente avrete tutti sentito parlare, Malala Yousafzai, una ragazza che ha avuto il coraggio, attraverso un'esperienza drammatica, di rivendicare il diritto delle bambine a essere istruite, a poter studiare. Diciamo che una delle caratteristiche delle vite di Carla, quella di affermare il principio e la necessità dello studio a tutti e a tutte, in un caso per Carla e anche ai bambini con difficoltà, ai bambini handicappati che allora venivano, come dire, isolati nelle classi differenziali. Carla ha fatto una grande battaglia perché i bambini con difficoltà venissero inseriti nelle classi normali. E un ultimo passaggio, che è l'apertura del saggio a incipit del mio della curatela del mio libro, io rimando a una grande donna che ha fatto il Novecento, di cui forse qualcuno avrà sentito parlare, una grande filosofa, una delle filosofe più riconosciute del Novecento, mi riferisco ad Hannah Arendt, e c'è un passaggio molto bello che vorrei leggervi, che è un po' di augurio, che come dire, in qualche modo collega la vita di Carla, le vite di Carla, alle vite di molti di voi. Anche nei tempi più oscuri, scrive Hannah Arendt, e questi sono tempi oscuri, tra le varie cose che avrei voluto dire, ma non abbiamo avuto tempo, avrei voluto chiedere a tutti voi, se non c'è tempo non lo facciamo, ma provate a essere, come dire, in questo momento vicini a quei bambini e a quelle donne, a quegli uomini che stanno morendo per l'inalazione di gas nervini in Siria. È un crimine grandissimo contro l'umanità, si ripete nel Novecento e nel 2000 questo crimine terribile. Avete visto le foto di questi bambini esanimi i cui occhi non possono neanche più chiudersi per l'effetto dei gas nervini. Quindi davvero stiamo vivendo tempi oscuri. E Hannah Arendt nel 1954 scrive questa cosa: abbiamo il diritto di attenderci una qualche illuminazione, ed è molto probabile che essa arriverà non tanto da teorie, era uno dei temi che ricorrevano in queste due giornate, o da concetti, quanto dalla luce incerta, vacillante, spesso fiocca, che alcuni uomini e donne, vedete che Hannah Arendt, come dire, riconosce, nel corso della loro vita e del loro lavoro, avranno acceso in ogni genere di circostanze, diffondendola sull'arco di tempo che fu loro concesso di trascorrere sulla terra. E credo che, nonostante l'impazienza, l'asprità e l'asprezza con cui Carla, come dire, manifestava il suo carattere irruente e impaziente, era uno dei titoli che avremmo voluto mettere ma è stato cassato, però lo ripeto, ecco, Carla in qualche modo ha illuminato un percorso che oggi le giovani donne in qualche modo riconoscono, di diritti che faticosamente, badate bene, lo sapete bene voi sindacalisti e sindacaliste, che i diritti non sono mai acquisiti una volta per tutti, che i diritti che apparentemente ci sembravano, come dire, riconosciuti ed affermati in qualsiasi momento, non solo in Italia, ma guardiamoci nel mondo, possono essere perduti. Silvia, ci ha fatto già prima un accenno Rosina, parlando dell'impegno di Carla dopo il sindacato anche a livello governativo. La sua grande conquista è stata quella appunto sulla strada della legge per le pari opportunità. Ce ne vuoi parlare un attimo? Per parlare dell'impegno che Carla Passalacqua ha esercitato all'interno del Comitato per la Parità del Ministero del Lavoro all'inizio degli anni 90, bisogna fare una breve premessa che si rifà anche al suo impegno precedente, quello del Coordinamento Nazionale Donne della CISL. Innanzitutto, Carla Passalacqua non era una femminista, cioè, se vogliamo inquadrarla storicamente, non era e non si identificava col movimento femminista degli anni 70, e questa cosa si è rivelata all'inizio anche un ostacolo per lei anche all'interno dello stesso coordinamento donne, perché parlava proprio un altro linguaggio. Ciò non significa però che, a vederlo con gli occhi di adesso, in cui si discute tanto, no? Adesso si parla di terza ondata del femminismo, quarta ondata, femminismo pop, molte donne si rifiutano di definirsi femminismo, e quindi la domanda principale è: ma che cos'è essere una femminista oggi? Se con queste domande riguardiamo al passato, possiamo dire che se anche, Carla non era una femminista e non si definiva tale, e le donne intorno a lei che avevano fatto il femminismo storico negli anni 70 non l'avrebbero definita tale, come obiettivi e come visione alla fine lei era molto più femminista di tante altre, probabilmente di tante altre donne, perché al di là del linguaggio che usava e del suo pragmatismo che le veniva dall'esperienza sindacale, che un po' si scontrava anche con l'idealismo femminista di quegli anni, lei in realtà ha poi fatto proprio in un tempo relativamente breve, perché era una donna, da quello che ho potuto capire, che si buttava nelle cose e non solo le assimilava in fretta, ma le introiettava, le faceva proprio se la battaglia le sembrava giusta. È riuscita poi a lottare, come già ha detto Rosina, molto più fortemente di quanto donne che magari affermavano essere femministe in quel momento avevano magari anche dell'eritrosia a fare fuori o dentro il sindacato. E una delle cose era sicuramente non solo prendere la parola, che quello ormai era facile, ma anche mantenere la parola. Io adesso lo dico scherzando, prima stavamo parlando e tu un paio di volte hai fatto al brusio e si può notare, adesso vabbè, a parte l'intervento prima di Marcella che è stato coinvolgente con riferimento alla Siria, però si può notare che ancora adesso, ad esempio, quando parlo con Fatti c'era meno brusio, questo può essere una cosa gerarchica, ma forse no! È la verità, e questa cosa è successa anche a Carla Bassolacqua, cioè lei quando parlava ai congressi, cioè io ho ricordato un caso perché ho ritrovato delle registrazioni anche su Radio Radicale dei congressi della CIS, lei prende la parola e a un certo punto deve intervenire il moderatore perché c'è un brusio esattamente come quello in questa sala e dice, ma insomma compagni, lui è l'unica donna che è iscritta a parlare, diamo un'occasione per parlare e farsi sentire. Quindi anche nelle piccole cose, lei guardava avanti delle battaglie che sono comunque ancora nostre, quella di parlare, di farsi valere. Proprio per questo suo impegno alla fine le è stato riconosciuto anche da una persona con cui si è scontrato questo molto spesso, come Marini, quindi avvocando poi Marini è diventato ministro del lavoro, lei in parte perché disegnata scelta dalle sue compagne, in parte perché disegnata dal ministero, è andata poi a ricoprire appunto la carica di vicepresidente del comitato per la parità del ministero del lavoro, e gli ha portato avanti la battaglia appunto di cui dicevamo. È stata poi anche a Pechino, quindi ha vissuto tutta un'altra stagione, quello dell'empowerment, in cui sono venute fuori, diciamo, altri obiettivi e altre parole. Sicuramente è stata una testimone dei tanti cambiamenti e delle tante piccole conquiste che hanno fatto le donne. Cosa posso dire ancora? Lei veniva, quando Carla Bassolacqua assume ad esempio assume la carica del coordinamento femminile, erano state appena conseguiti risultati importanti come quello ad esempio del referendum sull'aborto. Io penso che se lei fosse ancora qui tra noi sarebbe molto preoccupata di alcune strade, di alcune scelte che si stanno compiendo, di come tutti i giorni i diritti delle donne vengono, anche in questo paese che è una democrazia, vengono in un modo o nell'altro, se non apertamente negati. Scusate, abbiamo quasi finito, una decina di minuti e concludiamo, lasciamo però parlare Silvia. Quindi ogni volta, penso che ogni volta che una donna si sente ad esempio, parlo proprio di poveri dell'oggi, penso che ogni volta che una donna si sente magari sminuita o anche solo si sente, c'è un nuovo termine che adesso in inglese in questo momento, scusate, mi è scappato di mente, comunque con cui, che sta diventando molto di moda, con cui si designa il fatto che quando le donne parlano di solito gli uomini interrompono e gli fanno la paternale spiegando loro che cosa dovrebbero dire, che cosa dovrebbero pensare. Questa è una cosa che sui luoghi di lavoro, al di là dell'aver sfondato il tetto di cristallo, fallo succede sempre. Quindi ogni volta che veniamo interrotte su un posto di lavoro, ogni volta che ci ritiriamo in un ospedale e non ci danno il diritto di scegliere se o non abortire. E come persone, perché un'altra cosa che mi ha colpito molto, e concludo, è il fatto che una persona così vitale al di là, come Carla Passalacqua abbia passato una fase terribile dal punto di vista della malattia, della propria salute, perché è arrivata a un certo punto in cui praticamente tutto ciò che le piaceva non poteva, ho letto la testimonianza della sua malattia, non poteva più mangiare, non poteva più parlare. Quella non è una battaglia prettamente femminile, è una battaglia umana, però io penso che anche da questo punto di vista ogni volta, anche se quando parliamo di cose difficili che ci toccano praticamente nelle scelte etiche profonde come quello del fine vita eccetera, io penso che Carla Passalacqua, se fosse viva, si batterebbe anche per quello, perché una donna come lei, almeno a mio giudizio, non avrebbe dovuto ridursi così, avrebbe potuto, magari se avesse avuto la possibilità di scegliere, compiere una scelta coraggiosa e battagliera anche verso la fine, e se non l'avesse fatta sarebbe stata una scelta altrettanto coraggiosa, ma una scelta sua. Quindi io penso che l'esempio di donne come Carla Passalacqua ci deve spronare continuamente a tutte le età a cercare di far andare avanti diritti civili che concludo che ho sentito ultimamente da una giornalista che io ritengo che non apprezzo per niente come Sallusti, ma l'altro giorno in una discussione con la Gruber se la prendeva col fatto che il governo adesso appunto volesse discutere il testamento biologico e prima i diritti per gli omosessuali eccetera, ma questi sono diritti civili, ci sono altre battaglie, c'è il lavoro, c'è la povertà. Secondo me queste cose devono andare tutte assieme, cioè si può combattere per avere un lavoro dignitoso, per avere una e contemporaneamente per far sì che noi e le minoranze tutto questo si abbia praticamente si abbiano contemporaneamente sia i diritti sociali che quelli civili. E la lezione di Carla è che secondo me lei l'aveva capito benissimo molto tempo prima di altre persone. Grazie. Non è una mancanza di rispetto, perché noi siamo diversamente giovani. È tutto fatto. No, ma era una battuta. Ultimissima cosa, poi ancora una battuta sull'eredità che viene lasciata quindi da Carla sia al sindacato che alle donne. Rosina, magari cominci. Sì, il solo fatto che abbiamo scritto queste cose in un libro, il solo fatto che faremo altre iniziative su Carla vuol dire che delle cose ce le ha lasciate. E che vogliamo, proprio perché stanno scritte sul libro, vogliamo passare il testimone alle nuove generazioni, insomma, alle quelle che sono ancora attive, che non sono nel sindacato dei pensionati, che dovremo vedere. Oggi c'è il nostro congresso, va bene qui, però bisognerà vedere con la CISL di trovare momenti in cui le cose che ha portato avanti Carla, le cose che nella CISL sono rimaste di Carla non restino con lettera morta. Il fatto di aver fatto un libro è partito proprio da questa valutazione, per passare il testimone alle nuove generazioni, soprattutto alle donne giovani che cominciano ad arrivare, entrano nel sindacato e cominciano a iscriversi al sindacato. Questa è la ragione fondamentale anche per cui abbiamo fatto il libro, proprio perché le cose di Carla devono restare vive nella città, attualizzate ovviamente rispetto alle questioni che cambiano eccetera eccetera, ma i principi, il modo di lavorare, la grinta, questo modo di lavorare dentro il sindacato è un fatto importante, così come le conquiste che Carla ci ha consentito di fare e per cui siamo qui oggi. Grazie, ecco, è un impegno anche da FDP a livello nazionale, visto che sarà dedicata a questa sala nella vostra sede. No, io credo, io non sono tanto per i ricordi, perché arrivati a una certa età, c'era la vita e solo un ricordo. Io credo che il più grande insegnamento che ci ha lasciato Carla è quello che stiamo facendo e vivendo quotidianamente. Cioè noi ci stiamo come FNP impegnando a fare in modo che la massa di donne che ci sono presenti all'organizzazione, diventino anche gruppo dirigente e che lo diventino non in maniera forzata perché ci sono le quote, ma per scelta consapevole di tutti gli iscritti che ritengono che anche l'apporto delle donne sia un'importanza strategica. Anche in questo congresso lo chiuderemo, la fase congressuale su base nazionale, con ulteriori 3 segretari donne generali, con un'immissione di altrettante o 6 o 7 donne nel gruppo dirigente. Carla è stata, diciamo, quella che ha inaugurato l'inizio dell'autostrada e va ricordata e rispettata per quello che ha fatto. La vita continua e bisogna tener conto di quello che ha detto aggiornandolo, perché anche qui, e mi dispiace essendo l'unico uomo, spesso e volentieri, non è il caso di oggi, in politica si parla di quello che è stato, ma non lo si aggiorna e non lo si contestualizza al momento attuale. Questo anche in politica, e questo riguarda anche le donne. Ci sono battaglie che sono fondamentali, è vero che non abbiamo ancora raggiunto alcune cose che anche Carla, ma le abbiamo contestualizzate poco, credo, rispetto, perché pensare a tutte le discussioni che io ho avuto con Carla a quei tempi, se dovessi rifare oggi non le rifarei in quel modo, perché va contestualizzata. Questo è il limite della politica di oggi e anche di chi si impegna su alcuni problemi importanti. Vanno contestualizzate, perché anche alcuni titoli di moda allora, oggi io ripeto, poi posso anche essere fucilato sul campo, che secondo me, per come lo stiamo vivendo, anche il problema delle quote sta diventando la creazione di un ghetto e non la valorizzazione del ruolo delle donne, mentre allora era l'unica arma possibile per iniziare il ragionamento, perché oggi, siccome siamo un po' più avanti, bisognerebbe che insieme trovarsi con un modo diverso, perché il dover continuare a discutere del garantire questo, garantire quell'altro, vuol dire che non abbiamo fatto passi in avanti in questi 20 anni. Allora io credo che dovremmo riflettere realmente sulla dignità che le donne, non anche le donne, che le donne hanno nel sindacato per quanto mi riguarda, ma anche nella società oggi. E quindi contestualizzare tutte queste battaglie. Io spero che la nostra amica, anche da questo apporto che ha col sindacato, possa trasformare il suo ruolo, questo è un impegno che ci prendiamo noi, il suo rapporto di lavoro da provvisorio a definitivo. È un augurio. Grazie, adesso ridò la parola al Presidente così possiamo andare avanti con gli interventi. Grazie. Prego.